di finestrino giù, giù. Guido per la strada sotto un cielo blu, blu. È la vita che mi chiama, risponde, faccio tu, tu. Ricordi fanno cucù, senza meta, sigaretta accesa. Non calcolo la spesa della benza. Mi fisto sulle facce della gente, noto qualche somiglianza. Un gesto, un attimo, un respiro. Asciughi i miei ricordi, li stampo con la biro. Mi fermo, alzo il finestrino, shh, spengo tutto. Scendo dalla macchina, impossibile girar pagina. Si sanguina la ferita, nucchia, non si rimargina. Tempo al tempo, anche senza cicatrene, cicatrizzo le ferite. Cicatrizzando sere nere, mimetizzi i miei sorrisi. Mi perdo in pause intere. Ricordati. Girano come gira il mondo, giro giro tondo, ti ricordi in un secondo. Pongo problemi se poi sondo, confondo. Ma il mente invece con il buio più profondo. Il mondo, quanto infame questo mondo. Non do modo per soffrire, lui mi porta il resoconto. E se conto, amici che sono rimasti. Muovo quattro dita, fisso siamo quattro gatti, quattro matti. E se penso agli inizi, flotte di b-boy, tutti con quattro vizi, quattro tizi. Restano su quattro quarti con quattro arti. Su open mic ai parti, parto sì. Che poi parti anche tu. Siamo partiti tutti, restando sempre giù, giù, giù. Dai, baciami ancora, tanto so che quel che non uccide rafforza questo flow. Ricordati. Ovunque tu sarai, ricordati chi sei, sei. Ricordati. L'origine è un valore, l'origine è un valore, l'origine è un valore. Portati via da me, se il cielo è sempre più blu. Il mio cielo dov'è? Dov'è che c'è? Dov'è, dov'è che c'è? Il flusso di ricordi positivi dentro me. Perché non c'è così com'è? Che tocca accumulare, accumulare. Per poi scoppiare con rap, con rap. R come il rap che rispettiamo. A come l'amore che pompiamo. B come la pace, sì la pace che perdiamo. Perdiamo chi siamo, chi siamo. Noi persi con la picchi in mano. R come rap che rispettiamo. A come l'amore che pompiamo. B come la pace, sì la pace che perdiamo. Perdiamo chi siamo, chi siamo, chi siamo. Persi con la picchi in mano. Ricordati. Ovunque tu sarai, ricordati chi sei, sei. Ricordati. L'origine è un valore, l'origine è un valore, l'origine è un valore.